puntari, lutari e fatturoro, sette femmini puncannolo, lucannolo e fatturi canna, sette femmini pina manna, la manna è fatta di lino, sette femmini pumparino, luparino, dici la messa frino, va la badissa rimurriale frino, va marcio natale, marita la figlia, maccarrone di caniglia e la pizza, la porta cura, vuole sì la porta. Fatturoro, sette femmini puncannolo, lucannolo e fatturi canna, sette femmini pina manna, la manna è fatta di lino, sette femmini pumparino, luparino, dici la missa frino, la badissa rimurriale frino, faccio Natale, marita la figlia, maccarrone, di caniglia e la pizza, la porta, cura, vuole, sì, la porta, e la pizza, la caviglia, cura, vuole, sì, la picchia, tirulla, tirulli, sette femmini puntari, tirulla, tirulli, sette femmini puntari. La manna è fatta di lino, sette femmini pumparino, luparino, dici la messa frino, va la badissa rimurriale frino, va marcio Natale, marcio Natale, dirulli, sette femmini puntari, lutari e fatturoro, sette femmini puncannolo, lucannolo e fatturi canna, sette femmini pina manna, la manna è fatta di lino, sette femmini pumparino, luparino, dici la messa frino, va la badissa rimurriale frino, va marcio Natale, marcio Natale, marita la figlia, maccarrone, caniglia e la pizza, la porta cura volci, la porta frino, la badissa rimurri al frino, faccio Natale, marita la figlia, maccarrone di caniglia e la pizza, la porta cura volci, la porta frino.